sono esonanzi di una guerra anacronistica che avanza. Arachnidi su teletrappola, teletrappola, manovra l'adolescenza che avanza in una giungla come i mogli, tramite mostre e mogli e riluttanza. Fai la mentre, cuore di Frida, la malattia di rissa di una donna mostro, il lustro di Gucci, voci parose in note di possessione aliena e botte, fotte, fotte, fotte, sono ricco, piatto ricco, mercifico, fame della fico, ma famosi su un'isola di una nazione ipnotica che isola il malato in una stanza che vola. Sole scendo vestiva 60, faceva di pagliaccio con una lacrima schizofrenica. Sole scendo vestiva 60, faceva di pagliaccio in una lacrima schizofrenica. Sua eccellenza, la prestima oltre, oltre la dipendenza, amore in astinenza, dietro l'ambulanza, il braccio teso innanzi di una guerra anacronistica che avanza. Arachnidi su teletrappola, teletrappola, manovra l'adolescenza, tele che avanza in una giungla come mogli, traniti mostre mogli in ignoranza. Fai la mentre, cuore di Frida, malattia di rizza di una donna mostro, il nostro di Gucci, voci parose in notte, di ossessione aliene botte, fotte, fotte, fotte solo, il ricco, piatto ricco, mercifico, fame della fico, famosi su un'isola di una nazione ipnotica, che isola il malato in una stanza che vola. Sole Charlotte vestiva 60, faccenda da pagliaccio con una lacrima schizofrenica.